Runtime Radio presenta Ludico Forum. Ciao cari amici della Snoces. No, vabbè, quello è un altro programma naturalmente. Ok ragazzi, mentre che attendiamo che a questa live cominci ad arrivare gente, intanto faccio, diciamo, un po' quelle che sono le solite chiacchiere di rito che si fanno praticamente quando si inizia a fare un podcast o si inizia a fare una live. Nello specifico vi ricordo che questa live che stiamo per fare, dove tratteremo tutta la saga di Rusty Lake come fenomeno anche artistico culturale, vi ricordo che questo è una live che stiamo facendo sul nostro canale di Dietrologia Videoludica, che poi andrà a finire sul feed audio del podcast Ludico Forum. Poi non so se la persona che mi accompagna in questo viaggio, ma poi glielo chiediamo fra un poco, vorrà ovviamente anche metterlo magari sul suo di feed o su uno dei suoi feed, insomma dei vari progetti che lui ha e che magari prima o poi magari riprenderà anche. Ma soprattutto vi voglio ricordare che tutto questo fa parte della grande famiglia di Runtime Radio. Runtime Radio, anche detta la Radio Geek, è un progetto dove il core fondamentale ovviamente sono sempre i podcast tecnologici, videoludici, informatici e non solo, ovviamente, perché sono anche programmi di altro genere che vengono racchiusi ovviamente in una web radio che trovate su www.rantemeredio.it, dove insomma, se volete, andando a cliccare sul pulsante anch'io, potete contribuire se credete in questo nostro progetto. Nello specifico per questa live, quindi per quelli che ci stanno guardando in video, basta scannerizzare questo QR code qua sotto di me, e praticamente potete andare direttamente all'accesso diretto per la donazione a Runtime Radio. Nello specifico vedete il logo di Runtime Radio e il nome di Simone Pizzi, perché ovviamente non essendo ancora Runtime Radio una figura giuridica, ma questa cosa sta cambiando, troverete questa situazione qui, insomma. Ovviamente, per rendere la cosa più semplice per tutti, io metterò un QR code qua, eccolo qua, questo qua, e metterò questo QR code sempre lì a disposizione, in modo che insomma, se volete dare poi una mano, partecipare, contribuire con le vostre donazioni, insomma, potete farlo in qualsiasi momento. Ma diamo il benvenuto a Leo Vargon. Buonasera a tutti quanti, finalmente. Ma che bell'uomo. Tu non hai idea, Simone, di quanto io sia veramente veramente felice di fare questa live. Finalmente per me ha un valore non solo affettivo, ma c'è tanto da dire questa sera, quindi io sono molto molto contento di essere qui e spero che tanti si aggiungeranno, tanti altri magari recupereranno la live. Io spero chiaramente che ci sia la massima diffusione di quello che andremo a fare stasera. Ci tengo particolarmente e penso si sia ormai capito. Per l'occasione lo faccio vedere a voi che siete già qui. il super fan giustamente è dotato anche di attrezzatura, insomma, ufficiale brandizzata Rusty Lake. E insomma, buonasera belli, ciao Pixel, ciao Deborah, benvenuta. E ovviamente c'è anche Valentine, il nostro Vincent Valentine, compagno di 1500 e 1600 Adventure. Io non so se tu hai fatto il restream su altri canali di questa diretta. No, hai preferito di no. Sulla mia pagina Facebook lo potrete vedere e ho per ora sono in quello, perché Twitch era un po' più ostico, non so perché, siccome il tempo stringeva non riuscivo a fare il restream come avrei voluto, ecco. Quindi per ora questo, ecco. Poi cercherò assolutamente di farlo ascoltare, farlo sentire più possibile questo episodio, ecco. Va bene Leo, però prima di iniziare insomma seriamente a parlare di Rusty Lake, ti do un attimo un minuto e mezzo per presentarti sia come appassionato che anche come podcaster, come quello che te vale, insomma, perché tu poi c'hai tante cose dietro, no? C'hai le rievocazioni, prendi a spada della gente, insomma, quindi non so quanto sia interessante per la gente sapere altro su di me che non sia legato al tema di questa sera. Però per chi non mi conoscesse, buonasera, io sono Leo Varghion, faccio parte di Runtime ormai da qualche anno, e prima di allora avevo iniziato una mia personalissima carriera da podcaster indipendente. Poi Runtime giustamente mi ha inglobato dicendomi: a ragazzi, che devi da fa? E io giustamente ho questa pacata, chiaramente, chiamata alle armi, ho deciso di sposare la bandiera di Runtime, di trasportare lì il mio podcast, che potete ascoltare lunedì e il mercoledì, chiamato il podcast. Allora, il lunedì e il mercoledì, lo ripeto io perché giustamente Leo durante questa diretta lo sentirete quasi sempre bene, tra l'altro intanto c'ha delle fluttuazioni così quantistiche, diciamo così, e quindi insomma non si è sentito bene, quindi lui praticamente il lunedì mattina e il mercoledì mattina alle ore 7 su rantemedio.it fa la sua diretta con il mattino loro in podcast, poi ovviamente la puntata subito dopo viene postata nel suo feed RSS, nel suo podcast, che quindi cercatelo, insomma, come podcast lo trovate un po' dappertutto, insomma. Io spero chiaramente che la connessione non mi uccida troppo, perché stasera sarà tosta. Mm-hmm. E per noi questo ci proviamo. Altro dire. Io, come appassionato di Rusty Lake, sono un giocatore dal 2019, scoprendo i vari titoli e innamorandomi dall'inizio proprio della sua filosofia, della sua saga, della sua estetica, tanto che alla fine ho deciso anche di creare forse uno dei più... L'audio è un po' saltarello, dicevi. Mi dispiace. Lo so, ragazzi, purtroppo stavolta non dipende da me, eh. Io l'ho risolto i miei problemi. Io probabilmente ancora no. Comunque cercherò di essere conciso nei miei discorsi. Ho cercato, attraverso uno dei miei primi podcast, chiamato Oro, di raccontare in totale, nel complesso, la saga di Rusty Lake. Aspetta, ti fermo subito, così almeno diamo un attimo un po' di coerenza a tutta questa cosa, che a me piace tantissimo, tu lo sai, perché io ho scoperto che tu amavi Rusty Lake proprio da un tuo podcast, no? Che poi in realtà è un audio documentario, ma poi ci arriviamo. Io la prima cosa che voglio sapere è il tuo rapporto con i videogiochi prima di Rusty Lake, cioè nel senso... Eri comunque un giocatore, ti piaceva roba del genere, e comunque magari non è neanche il tuo genere quello dell'avventura grafica o i giochi narrativi e via dicendo, oppure diciamo che Rusty Lake ti ha riavvicinato al mondo dei videogiochi. Questa è una cosa importante secondo me come aspetto. Dunque, i videogiochi sicuramente hanno fatto parte della mia infanzia, ma non in una maniera così totalizzante. Io, non avendo mai avuto console particolarmente potenti all'avanguardia esatto, in casa, mi sono sempre accontentato di emulatori, di magari di recuperare vecchi titoli magari anni dopo, quindi io non ho mai sviluppato una fame per il prodotto videoludico più moderno. Anzi, in certi casi mi sono sempre, diciamo, anche un po' annoiato, se vogliamo, quindi ho sempre cercato quei titoli un po' strani, un po' dimenticati dalla massa, oppure semplicemente quelli più particolari o anche quelli più vecchi, perché no? A me piace, per esempio, rigiocare cose del mio passato, non ho bisogno della grafica super pompata, anzi, vabbè, certo, non è poi così indispensabile. Ho provato, per esempio, la saga più l'unica saga, se vogliamo, più moderna che mi è con cui sono cresciuto, se vogliamo, è stata Assassin's Creed, ma anche con quella non è che ho fatto un percorso tanto estremo, ecco. Sì, ho giocato, ho amato i primi titoli, ma poi dopo Black Flag mi sono fermato, non ho più avuto così l'esigenza di continuare la storia, anche perché, per carità, sono molto belli, li adoro, gli Assassin's Creed li adoro assolutamente, però non, ripeto, non hanno su di me quel fascino che può avere. Già, dopo un po' Duval, questo è, insomma, il riassunto, dopo un po' Duval. Sì. E per il resto, i videogiochi per me non rappresentano esattamente la forma d'arte, la forma di intrattenimento principale, assolutamente. Però devo dire che con Rusty Lake ho dovuto rivalutare effettivamente il prodotto videoludico nelle mie giornate. Ok, ma come ci sei arrivato a Rusty Lake? Cioè, nel senso, tu magari un giorno stavi lì, scorrevi su Steam, hai visto sta cosa, oppure hai letto qualcosa da qualche parte? Cioè, non ho letto assolutamente niente, è stato un fulmine a ciel sereno. Non lo so, stavo scorrendo effettivamente per noia un giorno il Play Store di Android, scorro, sarà pure perché io apprezzo gli escape room, in realtà apprezzo i giochini di logica che facevo magari su Flash Games, su questo tipo di siti, quindi quelli che ti aiutano ad aguzzare l'ingegno, che ti, insomma, che ti spingono a guardare bene i dettagli, quindi quel tipo di giochi mi ha sempre affascinato, quindi proprio l'avventura grafica in generale e soprattutto l'avventura grafica di stile proprio escape room, uh-huh, mi ha sempre affascinato, mi ha sempre preso. Quindi dicono che però sei un templare, eh? Gianluca assolutamente non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Quindi sei un assassino, o sei uno o sei l'altro, o sei da Roma o sei da Lazio, non è che esiste. No, assassino tutta la vita. Sciascino tutta la vita. Comunque, grande. Il mio fratello di madre diversa, Gianluca. Sono felice che sia qui questa sera. Molto importante per me che sia lui e che lui ci sia. Ciao Gianluca, benvenuto. E che dire? Niente, praticamente per noia, così ho deciso di scaricare il primo titolo. Che era gratuito, mi pare, no? Era gratuito. La prima parte era gratuita. Mm-hmm. E io ho deciso di volergli dare una chance. Era, nello specifico, il titolo era Cube Escape Paradox, che ad oggi secondo me resta forse uno dei migliori di Rusty Lake a livello di storia, a livello di ambientazione, ed è secondo me uno dei migliori per anche altre cose che diremo più avanti, e ha una prima parte, un primo capitolo gratuito e un secondo invece a pagamento. Finito il primo capitolo mi sono immediatamente fiondato a comprare il secondo per pochi euro. Ovviamente i giochi di Rusty Lake non sono assolutamente costosi, sono tutti giochi che sono alla portatissima di tutti e valgono ogni centesimo secondo me, e sono rimasto innamorato di questi titoli. E scoprire che esistevano achievement, esisteva tutta una storia, esistevano altri titoli che si collegavano ad esso, mi ha fatto completamente innamorare da subito della saga, costringendomi a recuperare tutti gli altri e a cercare già nella mia testa di capire di più della storia, anche se è molto criptica, molto complessa, e secondo me in certi casi anche gli sviluppatori non hanno volutamente voluto creare una storia sperando che fosse magari il pubblico a colmare certi buchi di trama. Mi sono preoccupato un attimo perché secondo me stavi per dire, e secondo me neanche gli sviluppatori ci hanno capito niente. Ma in realtà guarda che potrebbe anche essere così. Io ho una pagina di meme che ho fatto su Rusty Lake, e uno dei meme che ho fatto è che c'è, da un lato c'è il pubblico che è rappresentato dal tizio, capito, che sulla lavagna si fa tutti gli schemi così, dall'altra parte invece ci sono gli sviluppatori che durante un'intervista stavano dicendo: beh, sì, stavamo decidendo una cosa, certo, abbiamo tirato una moneta per decidere questa cosa e lui ha vinto. Cioè, per dire che secondo me in certi casi neanche loro ci stavano capendo niente, quindi insomma. Guarda, allora innanzitutto approfitto perché c'è Debora in chat, per dire che vabbè, intanto le immagini che scorreranno a caso saranno random, cioè non sono presi in ordine random, ovviamente dalle live, dalle giocate di Rusty Lake da parte di Debora sul suo canale. Quello che sta parlando adesso, scusami, questo è Rusty Lake Paradise, è uno dei forse dei più criptici e tosti a livello di contenuto, perché c'è roba veramente veramente fuori di testa qui dentro. Comunque quello che dicevo è che, nel senso, passeranno queste immagini così random giusto per dare un po' così un po' di diversificazione oltre alle nostre due facce, tra l'altro sì, neanche bellissime, diciamo così. E ovviamente ringrazio Debora, quindi andate sul suo canale Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, insomma, come sempre, e soprattutto considerate che con Debora martedì e mercoledì prossimi avremo due live, ma abbiamo un po' di tempo prima di annunciarli perché ci stiamo ancora organizzando. E detto questo, prego, scusa, caro amico. No, niente, io ho letto la domanda di Debora che mi chiede giustamente se ho provato la nuova demo che è uscita ambientata nella metro, chiamato Underground Blossom, e sì, l'ho provato assolutamente, l'ho provato sia per cellulare che per PC per vedere insomma com'era il porting. Perfetto, assolutamente. E questo è amico tuo, io voglio far presente che questo è amico tuo. Sì, assolutamente, sceneggiatore di Boris. Sì. Ma certe cose, guarda, ovviamente non tutto è perfetto in Rusty Lake, ci mancherebbe, alcuni giochi secondo me hanno ancora qualcosa che potrebbe essere insomma migliorato o comunque corretto attraverso magari collegamenti che possano un attimo spiegarli meglio. Comunque, tornando alla domanda di Deborah, sì, l'ho provato e ho trovato, a parte che ci sono ovvie e fortissime connessioni con la trama dell'ultimo che è uscito, ovvero The Pass Within, che è un gioco fighissimo sulla falsariga di Keep Talking and Nobody Explode, se qualcuno ha presente il gioco. Assoreda anche un pochetto, un pochino. È sulla falsariga appunto di questo gioco in cui uno interpreta un artificiere e l'altro che ha un manuale. Sì, sì, figo, sì, ok. Infatti tutti i due giocatori devono in maniera coordinata, uno interpreta un personaggio ambientato nel passato, l'altro invece nel presente, e i due devono comunicare perché hanno davanti degli indizi, hanno davanti un cubo che deve essere insomma risolto, e attraverso gli indizi che si passano presente e futuro si può arrivare alla fine. Il finale è, a parer mio, sconvolgente se uno conosce la trama, quello che succede. Io sono rimasto abbastanza di merda vedendo il finale in maniera positiva, però è ovvio che la storia, la trama principale di Rusty Lake continua attraverso The Pass Within, non si vanno ad aggiungere diciamo personaggi o situazioni nuove, ma si va avanti con il materiale che si ha, utilizzando praticamente i migliori personaggi che sono stati tirati fuori fino adesso. E Underground Blossom secondo me promette molto bene, la demo è molto figa, è ambientata ovviamente in una metro, come detto, e le varie situazioni le si risolvono attraverso le varie stazioni di questa metro. Quindi, allora, anche qui diamo un po' di contesto, no? Perché chi ha scoperto Rusty Lake, diciamo, dopo, molto dopo l'uscita, perché comunque mi pare che il primo è uscito nel 2015, se non dico una sciocchezza, no? Il primo Cube Escape, okay, è del 2015. Ok, allora, magari tantissime persone, dato che comunque stiamo parlando di un'opera iper indipendente e che magari all'inizio non ha subito un grande supporto da parte del marketing, come può succedere, insomma, quindi c'è un certo punto in cui magari qualcuno dopo qualche anno, un paio di anni, due o tre anni, ha scoperto Rusty Lake, e Rusty Lake di per sé dice: ah, hai giocato a Rusty Lake? Cioè, non puoi dire una cosa del genere, perché innanzitutto Rusty Lake è una saga, prima di tutto, cioè nel senso è una sorta di lore, di big universe, all'interno del quale ci sono tutta una serie di videogiochi più anche opere cross mediatiche, tipo un fumetto e un cortometraggio, se non sbaglio. Esattamente. E, allora, parliamo un po' un attimo dell'ambiente, del mondo della Rusty Lake, perché molti fanno tanti riferimenti, un po' Twin Peaks, un po' David Lynch, un po' Detective Story, un po', cioè nel senso c'è tantissimo, c'è dentro un bel po' di roba dentro, insomma. Allora, mettiamola così, Rusty Lake intanto io durante la mia, come hai detto tu, durante il fono documentario che ho fatto, ho cercato anche anche di un attimo di capire se, guarda, a me il foro non mi serve sicuro, vai tranquillo. Io ho cercato di fare un minimo di teoria su dove potesse trovarsi proprio letteralmente Rusty Lake nel mondo. Ho la mia teoria, poi se vuoi te lo dico. Comunque, sì, la puoi dire, certo. Cioè, tu hai fatto una ricerca tua per cercare di ipotizzare Rusty Lake dove può essere, che cos'è? Esatto, dove potesse essere. Per una mia personale teoria, che secondo me non è da scartare, okay, però chiaramente non ho elementi ulteriori. Ma parlando insomma della base, cos'è Rusty Lake? Rusty Lake è letteralmente un lago in cui tu puoi andare a pescare. Infatti in svariati giochi ci sono riferimenti, si possono trovare questi volantini con scritto Rusty Lake Fish and Mental Health, ovvero Rusty Lake pesca e salute mentale, in cui tu semplicemente vai e ti svuoti la mente, quindi ti godi il paesaggio, sei lì rilassato, c'è tutto a Rusty Lake, c'è tutto quello che ti serve appunto per l'appunto sciogliere tutti i nodi, un po' tutte le preoccupazioni che hai nella vita. Ma chiaramente il luogo nasconde molti oscuri segreti che si aggirano attorno al lago, e in tutti i giochi si parla di questi segreti, si parla di cosa è successo e del perché effettivamente dietro a questo simpatico e molto rassicurante volantino, c'è in realtà un piano criminoso nei confronti di tutti quelli che avranno la sventura di dire: ah, ok, facciamoci una gita su questo lago che non ha per niente l'aspetto macabro, non ha per niente inquietante, no? Andiamo a pescare serenamente, giusto? E poi la bellezza, appunto, i giochi di Rusty Lake raccontano ovviamente vari punti di vista, quindi non c'è solamente una visione univoca, ci sono tanti personaggi che appunto sono protagonisti. Per esempio le immagini che stiamo qui guardando riguardano uno dei racconti più vecchi di Rusty Lake, se non il racconto più vecchio, ovvero Rusty Lake Paradise, dove si racconta la storia di questo ragazzo, David Highlander, che torna a casa sulla piccola isoletta di Paradiso che sorge proprio su Rusty Lake dopo anni che aveva lasciato la famiglia per un motivo che non sappiamo e che scopriremo nel gioco. Torna a casa perché suo padre gli ha scritto e ha detto: guarda, tua madre purtroppo è venuta a mancare, vieni a darci una mano perché abbiamo bisogno di te qui a Paradiso. E noi, tornando, quindi scopriamo insomma la bislacca famiglia che vive su questo lago e che sembra vivere in simbiosi con esso. Cioè, pesca per sopravvivere, a una capra da cui prende il latte, a una mucca, insomma, anche se questa poverina è malaticcia. Il resto, insomma, hanno un piccolo orto e pescano gamberetti, che sembra siano molto molto presenti dentro il lago. E per il resto sembrano semplicemente venerare il lago come entità che gli dà protezione e tutto ciò di cui hanno bisogno. David però si rende conto che ogni cosa che succede in quest'isola, insomma, nasconde appunto cose molto orribili, oscure, e soprattutto ogni giorno succede qualcosa ispirato per l'appunto alle piaghe d'Egitto. Il primo giorno in cui arriva, le acque sono tinte di sangue e via via, insomma, nei 10 giorni successivi ogni livello per l'appunto rappresenterà una piaga diversa, quindi le malattie, le cavallette, insomma, fino ad arrivare per l'appunto alla decima piaga, che chi si ricorda insomma qual è, non vado a spoilerare ulteriormente, che perché il gioco merita, ha tantissimo dentro, e quindi insomma fate voi, ecco. Oltre questo non so cos'altro dire. Per rispondere a Vincent, guarda, secondo me in tutte le opere del mondo c'è un po' di Silent Hill e un po' di Evangelion, cioè, se vai a vedere, quindi c'è il bene e il male in ogni cosa, quindi per la tua gioia soprattutto Evangelion, sì, io poi in particolare, che dire. Oltre questo, sì, i giochi chiaramente rappresentano, allora, però scusa, così almeno ti faccio una domanda pure per capire, no? Cioè, nel senso, comunque qui noi stiamo parlando di una saga che non è continuativa, cioè nel senso non è che c'è ogni, cioè nel senso parla sempre della stessa storia, soltanto che poi ovviamente magari ogni nuovo gioco aggiunge un capitolo, cioè parla di varie situazioni, vari contesti, in più che altro in un luogo che è forse il protagonista, no? Ora, alcuni titoli sono letteralmente ambientati a Rusty Lake, come per esempio Paradise, come Hotel, come per esempio, insomma, tanti titoli sono ambientati nei vari luoghi che sono attorno a Rusty Lake. Okay. Altri invece non c'entrano nulla, perché per esempio Case 23, il primo gioco della saga Cube Escape, è ambientato invece all'inizio alla casa di Laura Vanderboom, che faccio piccolo spoiler, ma comunque è il pretesto del gioco. Laura Vanderboom è la Laura Palmer del gioco. Vabbè, già il nome è più che una citazione, insomma. Intanto, esatto, salutiamo Irene. Ciao Irene. Anche dicevo, anche il nome del detective è una citazione a Twin Peaks, perché lui si chiama Dale, anche se il cognome è Vandermeer, che in olandese significa dal lago, quindi proprio... Perfetto. Dicevo, alcuni titoli sono ambientati effettivamente a Rusty Lake, altri invece sono ambientati prima fuori, poi però hanno sempre dei collegamenti. Per esempio Underground Blossom, che uscirà, non è ambientato a Rusty Lake. The Past Within non è ambientato a Rusty Lake. The White Door, che comunque, nonostante non sia stato prodotto da Rusty Lake, è comunque legato al mondo di Rusty Lake. E non è ambientato lì, è ambientato in un'altra città. Cioè, quindi sarebbe uno spin-off prodotto da altri soggetti. Altri soggetti che in realtà sono sempre loro, che hanno voluto creare questa succursale per diciamo anche. Beh, ma sì, per mettere un po' più di casino, giustamente. Perché no. Esatto, per rendere ancora, ancora più brutale la cosa. Però penso che vogliano magari. Con questa succursale staccarsi un po' dalla lore principale, anche se il loro primissimo titolo effettivamente è stato forse uno dei più importanti della saga, ecco. Ma quindi poi, se il luogo non è sempre lo stesso, i personaggi non sono sempre gli stessi, i tempi non sono sempre gli stessi, cos'è che accomuna tutta la saga della Steel Lake? Qual è la lore che insomma identifica poi alla fine comunque questa saga? A me prudono le mani perché vorrei... Vorresti spoilerare a qualcuno? No, spoilerà, dai, però cioè, cerca di sì. Rispondere senza spoilerare, insomma. No? Mi tengo chiaramente sul sicuro. Ora, quello che fa capire che ci troviamo in un gioco di Rusty Lake è chiaramente dei dettagli che sono imprescindibili, come per esempio i cubi. Ci sono quattro tipologie di cubi in Rusty Lake: nero, bianco, oro e blu. Finora questi sono gli unici colori che abbiamo visto dei cubi, e ognuno di questi rappresenta qualcosa. Il cubo bianco è il ricordo positivo, il cubo nero è il ricordo traumatico, negativo, è il karma, è letteralmente il karma negativo accumulato dalle persone. Il cubo blu è quello che ti permette di viaggiare nel tempo, e il cubo dorato invece è qualcosa che ancora non si è molto capito che cosa sia. È una sorta di cubo che li raccoglie tutti quanti, è una sorta di illuminazione, però è particolare e molto raro che si veda nei giochi. E oltre a questo si possono notare tantissime citazioni tra un gioco e l'altro. Per esempio nella saga Cube Escape alcuni di questi giochi parlano solamente del detective Dale Vandermeer e della sua indagine. Alcuni, per esempio, vado a citarne alcuni. Cube Escape 23, che parla letteralmente dell'inizio della sua indagine. Lui quindi arriva a casa di Laura Vanderboom, si rende conto, insomma, si guarda intorno, vede cosa è successo, cerca di fare una quadra della situazione, ma si rende conto che c'è qualcosa che non va. Scopre il volantino di Rusty Lake, torna nel suo ufficio e comincia a indagare, e alla fine arriva a Rusty Lake. Prima arriva a visitare questa chiesa in cui ci si ritrova per sogno, cioè in un sogno lui praticamente ha questa visione nel suo ufficio e si risveglia in questa chiesa. Riesce a uscire e arriva nella cabina di pesca praticamente di Rusty Lake, solo che lì trova un ascensore segreto che lo fa sprofondare letteralmente nel lago. E lui praticamente fa questo suo viaggio nei ricordi e in questo mondo onirico che, insomma, che non capiamo bene se sia la realtà o se sia qualcosa che si sta costruendo nella sua testa per cercare di creare, di capire cosa è successo. Alcuni indizi ci fanno capire che è stato lui ad ammazzare Laura. Alcuni indizi invece ci dicono che lui non c'entra assolutamente niente, che è solamente una vittima degli eventi, però è ancora troppo criptico per capire se è stato lui ad ammazzarla, se invece lui è solamente una parte della storia. Gli altri giochi in cui lui compare è per esempio Rusty Lake Theater, in cui lui si trova in questo lounge bar in cui succedono cose che sono tutte cose, ripeto, legate ovviamente a Rusty Lake, e ci presentano altri personaggi, per esempio Robert Hill, Bob per gli amici, che sarà protagonista dell'unico gioco per ora prodotto da da Second Maze, la succursale di Rusty Lake, ovvero The White Door, che racconterà appunto di Bob. In Twin Peaks non c'era uno che sia Bob per caso. Vabbè, questo è un originale, chiaramente. Questo è un altro Bob. Un altro Bob. E che altro? Niente, e praticamente sì, altri giochi in cui compare Dale, che uno molto interessante è per esempio Rusty Lake, Cube Escape Birthday, in cui Dale parla proprio della sua discesa dentro Rusty Lake, dice: le mie memorie sono state raccolte in questi piccoli cubi. Un cubo nero si presenta davanti alla sua faccia e praticamente gli racconta il suo nono compleanno, in cui lui praticamente perde i genitori. Non dico il modo e non racconto il finale, chiaramente, che è molto interessante. Dico solo che alla fine del gioco il cubo nero diventa bianco. Questa è una cosa che ancora non è stata molto spiegata. Io, come sempre, ho la mia teoria, però non ho ancora... Non ce la dici, non ce la dici. No, non la dico. Questa qui non la dico perché parte di questa teoria è spoiler. Posso dire però, secondo me, che cos'è Rusty Lake, proprio nel, come luogo, se volete, però a meno che tu non abbia una domanda più specifica. Nel frattempo saluto tutti quelli che si stanno connettendo in questo momento, insomma. Sì, no, no, ma ecco, perché a me quello che mi affascina tantissimo, quando poi ho giocato il primo in particolare, no? E comunque pensare a, cioè, se tu prendi magari la prima, la singola esperienza da sola è interessante, è figo, comunque è anche stimolante, artisticamente particolare, noi siamo abituati completamente a tutto altro tipo di giochi, no? Perché comunque anche questo suo stile un po' particolare, questi colori un po', anche qui un po' ci ricorda un po' Twin Peaks, no? Questa desaturazione, questo marroncino, diciamo così. E sì, è tutto affascinante, però poi alla fine, quando tu ti rendi conto che è un tassello di un universo molto più complesso, che ogni volta aggiunge, anche perché poi non stiamo parlando di giochi iperlunghi, no? Comunque parlando di giochi che sono alla portata, anche, anzi, forse sono più rivolti a non un giocatore hardcore, ma più a un giocatore attento proprio all'aspetto più narrativo, atmosferico, no? Perché poi comunque è il trip, no? Quello che poi alla fine nasce all'interno di un contesto come questo, no? Quindi alla fine vedi che tutto quello che viene fatto costantemente, piano piano, anche con delle uscite ravvicinate a volte una con l'altra, e aggiunge comunque un elemento all'interno di un universo che ha una sua coerenza, ed è assurdo, fino ad arrivare ovviamente anche al cortometraggio, che chiaramente, secondo me, uno lo capisce se ha giocato, cioè se conosce Rusty Lake, se no tante cose poi te le perdi un po' per strada, no? Sì, assolutamente sì. Il cortometraggio in questione è bello perché chiaramente serve per in realtà per risolvere gli achievement. Quindi c'è un intero cortometraggio fatto, che ovviamente ti fa cacare sotto perché è fatto veramente veramente bene, e che parla appunto di un, e quello in realtà è un pezzo del gioco. Tanto se letteralmente lo chiamo un pezzo del gioco, in cui tra l'altro è bello perché c'è un collegamento anche nel gioco, perché a un certo punto c'è un televisore all'interno di Cube Escape Paradox, c'è un televisore in cui Dale, il Dale del gioco, quindi con la stessa grafica che potete vedere anche nel gameplay che stiamo trasmettendo in questo momento, quel Dale lì dice: vedo me stesso, però sembro più reale. Quindi c'è anche questa sorta di quasi voler rompere la quarta parete. Ma è per quello che ti dico che è, oltre a essere cross mediatico, è anche meta, metamediatico proprio, perché comunque cioè, qui c'è proprio una commistione, no? Cioè, non solo di medium, ma comunque anche di tipologia narrativa. Cioè, lì tu giochi proprio con queste cose, no? E poi giochi comunque con tutta una serie di oggetti ed elementi che sono ricorrenti nella storia e che ovviamente sono l'elemento distintivo di una narrazione che oramai è diventata una saga, insomma. Ecco, diciamo che da questo punto di vista, secondo me, hanno fatto un buon lavoro, perché se uno osserva, e qui vorrei una tua osservazione, no? Se uno osserva così anche un po' più superficialmente il gioco, cioè tu dici, vabbè, alla fine hanno scopiazzato Twin Peaks. Ma in realtà, secondo me, Twin Peaks, che c'è, non possiamo negare che non ci sia, secondo me è semplicemente uno spunto per dare il là a qualcosa di molto più vasto, molto più grande. Quindi parte da un omaggio e diventa un universo. Sì, chiaramente ci vuole un po' di coraggio per fare questo tipo di discorso, perché si cerca chiaramente di fare ovviamente un omaggio, come dici tu, però si può scadere a un certo punto proprio nel mero fanatismo. Poi bisogna essere capaci di fare quello che si fa, perché io, questo è un discorso che ho fatto tante volte in generale, anche nel gruppo di Deborah, nei gruppi anche, insomma, quelli nostri, avendo avuto moltissimo a che fare con il cinema. Tutte le persone che escono fuori dalla scuola di cinema tendono ad avere questo brutto vizio del citazionismo, che alla fine, invece di diventare un omaggio, diventa poi alla fine una fotocopia di un qualcosa, no? Cioè diventa un'emulazione. Ecco, da quel punto di vista tu artisticamente e tecnicamente non impari niente, cioè semplicemente vai praticamente a ripiegare. Invece secondo me loro da sto punto di vista hanno fatto un cazzo di lavoro, come dicono i francesi. E i francesi hanno ragione in questo caso. E sì, è assolutamente vero. Tra l'altro io voglio proprio citare due esempi per far capire quanto questo tuo discorso sia realistico e reale. Perché per esempio due giochi come Cube Escape Theater e Rusty Lake Hotel sono la dimostrazione, secondo me, perfetta di come puoi fare citazionismo e di, anzi, prendere a piene mani da un universo e non, se vogliamo, non appropriartene in maniera impropria. Vado a spiegarmi, cioè Twin Peaks, oltre che essere una trama complessa, insomma, tutto, vive anche sicuramente della sua estetica e del suo, se vogliamo, delle sue vibrazioni che genera nello spettatore. È anche un'opera, non solo, non è solamente un racconto, è anche un'opera visiva, è anche un'opera artistica, vogliamo, moderna. Stilisticamente molto accurata, no? E lì trova la sua identità. Cioè, se tu pensi a Twin Peaks, già soltanto la sigla iniziale, sì, tu sai che quello è Twin Peaks subito, immediato, no? Sì, esatto. E non è una cosa super, a caso, sì, no? No, infatti, i due titoli che dico, che sono quelli più criptici, sono quelli più, se vogliamo, più artistici e più fuori di testa, cioè se vogliamo tornare proprio terra terra, sono quelli anche più complicati da interpretare, perché non vanno interpretati. Dopo che tu hai tutte le tue tutte le informazioni dei giochi, dopo che le hai colte, quelli lì diventa un rimescolamento, diventa una suggestione artistica, diventa tante cose. Certo, c'è il racconto alla base anche di questi due titoli che ho citato, quindi per l'appunto Theater e Rusty Lake Hotel, ma sono, per l'appunto, sono racconti questi qua che un po' non arricchiscono tutta la trama, ti danno solo degli elementi nuovi. Scusa, cioè, perché qui io per cose del genere sono finite l'amicizia, eh? Questa ma cacciate, eh? No, ma cacciate no, perché Debora è Debora, però sono finite l'amicizia per cose del genere, quindi vai, scusa, continuo. Tranquillo. No, comunque è questo. Io credo fermamente che che Rusty Lake, che Robin Raas e Martin Lois, i due creatori, mi scuserà chi parla olandese, ma io purtroppo la pronuncia, ci ho provato anche sul podcast su Oro a pronunciarli bene, ma non ci sono assolutamente riuscito. Comunque, io credo che loro due abbiano fatto una scelta coraggiosissima, cioè quella di affidarsi completamente all'affezione dei propri ascoltatori, dei propri fruitori dei giochi, perché non sarebbe stato da tutti veramente riuscire a far diventare un fenomeno letteralmente mondiale Rusty Lake senza credere veramente nel proprio progetto in tanti modi diversi. Cioè, già solo pubblicare questo tipo di giochi così criptici, così mancanti, se vogliamo, di punti fermi, come magari potrebbero essere giochi più smaccati. Gli altri giochi che possono assomigliare a Rusty Lake, sia prima di Rusty Lake che dopo Rusty Lake, non hanno mai riprovato a creare un universo nella stessa maniera. Ad oggi esiste un'altra casa di produzione che mi preme citare, una casa di produzione spagnola, se non erro, o comunque di un paese comunque ispanglofono. Vabbè, latino. Latino, sì, in generale, chiamata Dark Dome. Quelli di Dark Dome stanno comunque, io ho giocato i loro giochi, sono comunque molto validi, molto belli e complicati, che non è scontato, perché anche lì bisogna avere un equilibrio particolare anche per la complicatezza degli enigmi. Loro stanno facendo effettivamente anche loro un loro piccolo universo, ma è decisamente più didascalico rispetto a Rusty Lake, che invece non ti regala niente. Cioè lì o veramente li giochi tutti e provi a capirci qualcosa, oppure ogni gioco a sé non ti dà delle certezze, se non riesci a collegarlo ad altri, ecco. Invece Dark Dome non fa questo discorso, gioca molto più sul facile e sul dirti va bene, è questo, giochi questo, succede questo. Questo è l'inizio, questa è la fine, a posto. Quindi su quello siamo d'accordo. E invece Rusty Lake ti lascia con una cosa del tipo: sarà davvero finito? Questo personaggio avrà davvero detto tutto? Quello sarà davvero morto? Chi lo sa? Boh, sarà sì, sarà no, non te lo dico, non c'ho voglia di dirtelo, cioè, potrei dirtelo, ma non c'ho voglia. Dimmelo tu piuttosto. Pensa, se c'hai, esatto, capito. Ma anche questo è un aspetto di stimolazione, no, del rapporto col pubblico, no, in qualche maniera. Comunque io ti ho raccontato la storia fino a qua. Uno, esatto, mi può essere utile perché comunque mi lascia l'opportunità di costruire ulteriori tasselli in ulteriori modi. E due, sì, secondo me ti dà anche l'opportunità di mettere dentro di te il tuo. Cioè, cosa c'è di più bello quando tu esci dal cinema e mentre che esci parlotti con la persona e dici: ma secondo me questa cosa è così? Cioè, no, oh, raga, hai visto nel film è successo questo? No, perché quello oramai il pubblico è abituato a questo, no? Allo spiegone, no? Invece in realtà una storia che ti lascia così e tu dici: secondo me, ma tu secondo te, tu l'hai capita così o l'ho capita colà? E questa è la cosa, secondo me, anche più stimolante, più divertente, no? Assolutamente, anzi, cioè, è sempre più raro che il cinema si prenda queste libertà narrative, che ti regali una storia che detta volgarmente ci si capisce in cazzo. Cioè, per dirti, nel cinema ultimamente l'ultimo film che io personalmente ho visto che ha fatto un minimo questa cosa è stato forse Tenet di Nolan. Che io ancora non ho visto, devo dire. Nonostante essere un fan di Nolan, non l'ho visto il film. Nolan comunque ha costruito una trama complicata. Non, per carità, non è una storia che lascia punti d'ombra, però è comunque una storia che ti fa discutere. Dice: ma questa cosa, cioè, è successo perché così, cos'ha? Insomma, graficamente è complicato da tenere d'occhio, insomma, perché succedono talmente tante cose in una maniera talmente strana che tu devi stare molto concentrato su quello che succede. Infatti Nolan lo ha detto chiaramente, anche i dialoghi fra i personaggi io volutamente li ho resi inascoltabili al cinema, proprio perché volevo che la gente rimanesse lì concentrata su quello che io avevo da dire, che insomma è, ripeto, un discorso coraggiosissimo da fare nei confronti del proprio pubblico, perché tanti non sono pronti a questo tipo di sforzo da parte del regista. Tanti non sono neanche pronti o disposti a seguire il regista in questa avventura. Perché il pubblico si è impigrito, per colpa ovviamente delle opere al quale viene sottoposto, no? In generale. Il pubblico si è assolutamente impigrito e soprattutto è meno disposto a fruire in generale delle cose. Cioè, oggi si vedono meno film, si gioca probabilmente anche meno a dei videogiochi se non sono super competitivi, se non c'è una componente social che rende il tutto ancora più esperienziabile e, se vogliamo, anche condivisibile al pubblico. Cioè, Rusty Lake non ce li ha questi elementi. Cioè, non hai qualcosa da mostrare agli altri del tipo: ah, ho scoperto questa cosa qui, se non alla ristretta community che ti dirà: sì, ok, l'ho scoperto. Sì, quelli intrippati del gioco e della storia, giustamente, sì, no? Esatto, ma nel contesto normale tu non è che dici: sai, è come hai visto la puntata dei Beautiful e ne parli al bar, è inverosimile, no? Per un discorso come questo, insomma. Però esatto, ciò non toglie il fatto che il valore artistico di un'opera come questa è elevato, perché per quanto parzialmente invisibile è comunque una produzione o una serie di produzioni che elevano, diciamo, il medium del videogioco a un altro livello, anche dal punto di vista della maturità narrativa, perché esatto, si è fatto molto discutere, si è discusso molto negli anni su che cos'era la maturità narrativa nel videogioco, no? E allora ci hanno messo il sesso, no? E ricordiamo Heavy Rain o tutti, che io di per sé non so né contro né a favore, cioè, nel senso, se per te quella situazione è propedeutica a quella narrazione, per me ci può anche sta. Il problema è che non è quello che fa una storia matura. Una storia matura è quella storia, cioè quella situazione, quel contesto, quella costruzione narrativa che dice: a me non mi importa che questo è un videogioco, io lo tratto e con la stessa dignità come se fosse un libro, come se fosse un film, come se fosse qualcosa di, tra virgolette, più elevato, no? E questo, secondo me, è le opere come Rusty Lake che questo hanno fatto, secondo me. Sì, tra l'altro io, cioè, per quelli che hanno seguito la mia saga attraverso Bar Games, che è la rubrica del mercoledì del mio podcast, io ho fatto 20. Ricordiamolo, perché noi abbiamo detto che lui le 7 del mattino, il lunedì e il mercoledì fa le dirette, ma il lunedì, sì, parla di cose in generale. E il, sì, mercoledì è l'episodio dedicato ai libri game, sempre. Libri. Ok, fino a che non finisce un libro e poi ne comincia un altro. Esatto, gioie e dolori, soprattutto dolori, di questa rubrica. Ogni tanto sì. È stato anche lì dolori per quanto riguarda un gioco che tra l'altro mi ha regalato proprio Simone, ovvero Omen Exitio Plague. Che ha giocato anche Deborah, che ha giocato anche Deborah, per esempio. Voglio sapere le opinioni di Deborah sull'opera, assolutamente, anzi di tutti quelli che l'hanno provato o hanno visto gli episodi, insomma. Sì, perché io come te l'ho mandato a te, non so se gliel'ho regalato o se gliel'ho consigliato, e poi penso che lei abbia fatto anche i video sul canale, mi sembra che almeno un po' l'abbia fatto, no? Tu sei rimasto turbato da un aspetto in particolare, perché in quel contesto era totalmente inutile. Cioè, ci sta, io no? mi sono ritrovato a sentirmi particolarmente in imbarazzo. Probabile, cioè io mi sono riscoperto veramente che di avere 5 anni per determinati contenuti. Però io, per dire, in quel gioco, in quella situazione, a un certo punto vedere una scena di sesso, leggere, mi ha turbato, mi ha dato molto fastidio, più che altro perché, allora, non tanto dal punto di vista contenutistico, perché comunque il gioco comunque non è che ti desse una cosa smaccata, o comunque dice il personaggio infila il cioè, no, non era così. No, però insomma il problema di quel tipo di scelta, intanto ti ha risposto Deborah, sì, adesso infatti la vado a leggere, finisco un attimo e poi la leggo. Il problema vero di quella particolare scena era, e quello lo dissi in puntata, era questa sorta di, ripeto, di voglia quasi paternalistica, un po' anche dalla logica colonialista, insomma, di voler infilare sta cosa perché l'eroe bianco così che si bomba la ragazza. Ma guarda, no, guarda, se fosse stato quello, a me ha dato fastidio. Avrebbe avuto un contesto, ce l'avrebbe avuto. Il problema è che secondo me lì la cosa è anche peggio. Cioè, nel senso che secondo me lì proprio per una questione proprio strettamente commerciale, cioè ci ho buttato questo elemento che veramente non c'entra niente. Perché tu puoi anche semplicemente dire che magari, che ne so, i due a un certo punto, e finisce lì la scena, cioè nel senso. Invece questo dover andare, cioè, in una narrazione come quella, secondo me non c'entrava niente. Ma per me, io poi avrei fatto, diciamo, avrei avuto reazioni meno esagerate, magari, ma per me esagerate, perché tu sei, giustamente, sei tu. Lo ammetto, sono rimasto particolarmente turbato. Però devo dire che non c'entrava niente. Insomma, comunque, vabbè, dai. Cosa del colonialismo, delle cose, Montanelli, dai, non ritornavo sempre ai suoi discorsi. No, non ci ritorno, ma a me dette fastidio quello, perché in quella particolare situazione mi salì particolarmente odio per la scena, perché da come era descritta, non lo so, c'era questo contesto di fondo che a me dette particolarmente fastidio. Messo lì apposta. Se quello fosse storicamente, era contestualizzato almeno, cioè, nel senso, comunque ci stava. Boh, non lo so, però lì per lì mi dette fastidio. Ma vabbè, no, come dici tu, non è il caso di... No, di vabbè, non è questo il tema, esatto, sì. No, dice Deborah, giustamente, le è piaciuto, glielo hai consigliato, ha fatto le live, sto aspettando che esca quello nuovo degli stessi creatori, non l'ho finito, non sono arrivato a questo pezzo, però quello che ho giocato mi è piaciuto, dovrei finirlo, sì. Ma io infatti ho elogiato quel gioco perché... Tra l'altro sono due le scene, non è una sola, se tu ti ricordi, sì. Poi c'è anche un'altra dopo. Sì, mi hanno dato sempre questo. E lì sei impazzito proprio. Sì, vabbè, lì non ce l'ho fatta veramente, ma sarà pure perché ero particolarmente, se vogliamo, impreparato alla cosa, e quindi mi saliva, insomma, la carogna, come dice Walter Vannini, che salutiamo. Ciao Walter. Però da tutti altri aspetti invece io ho assolutamente elogiato il gioco, perché aveva un sistema molto user friendly, era comodo, era sensato, non ti faceva perdere tempo, e il contesto, cioè belle le musiche, bello il modo di fruire, bella la divisione in capitoli. Sì. Forse un po' lungo, ma quello molto lì lungo, molto lungo, è vero, però devo dire la verità, allora, per giocarlo su internet è lungo, forse giocarlo da solo magari ci può anche stare, il problema è che tu prendi le meccaniche di un libro game e le estendi, perché ovviamente il computer, il digitale ti aiuta, e più ci aggiungi anche degli elementi ruolistici, perché comunque ricordiamoci che c'erano comunque degli aspetti proprio legati al gioco di ruolo. Comunque vabbè, dai, non è adesso questo è il tema della puntata, ritorniamo un attimo, però ecco, che ne so, propongo con Pixel Deb, magari possiamo riprendere l'argomento. Sì, ma io questi dibattiti non vedo l'ora, cioè, nel senso, io anzi ve lo dico sempre in generale, proponetemi a fare comunque delle serate dove si parla di queste cose, io, sapete, sto sempre a disposizione. Comunque, ritornando a Rusty Lake, ecco, diciamo che questa cosa dell'elevazione a dignità superiore di un medium come quello del videogioco, per me è, secondo me, il più grande omaggio, ecco, diciamo, è un monumento che Rusty Lake lascia al mondo dei videogiochi, indipendentemente dal fatto che la saga è ancora bella e viva, insomma, quindi... Però ecco, ci daremo di questo, insomma. Sì, perché allora, Rusty Lake sicuramente ha il pregio, il grande pregio di essere diventata veramente qualcosa di grosso in tanti aspetti, e soprattutto adesso nel mondo dei giochi punta e clicca, delle avventure grafiche in questo senso, c'è un periodo pre-Rusty Lake, adesso c'è un periodo post-Rusty Lake, perché... Come con Lost nella televisione, tu dici? Esatto, sì. Sì, letteralmente sì. Nel bene e nel male, chiaramente, no? Perché come tutte le cose che rompono diventano poi un punto focale, e nel diventare un punto focale alla fine tutti si ispirano a quel tipo di discorso lì, purtroppo, no? Si ispirano, o comunque devono fare i conti che tanti diranno bello ma non è Rusty Lake. Cioè, oppure bello ma non balla anche un po'. Quello sicuramente fa parte del male che può fare Rusty Lake, che quando una cosa diventa troppo famosa diventa troppo pressante, chiaramente in un determinato contesto è ovvio che diventa un macigno all'interno del prato, ecco, che non può ignorare, ovviamente. Però è ovvio che, cioè, è un bel macigno quello di Rusty Lake, a cui tutti si possono ispirare, ma non solo, tanti possono sicuramente prendere ispirazione. Sicuramente tanti faranno dei riferimenti, e Rusty Lake diventerà quello che Twin Peaks è stato per Rusty Lake, sì. Quindi un punto fermo da cui partire. Io sì. Sono sicuro che appunto Dark Dome ha iniziato, secondo me, ispirandosi per forza a Rusty Lake, perché ormai non si può fare a meno. Poi, per carità, nascerà sicuramente qualcosa di completamente diverso, che avrà la sua dignità, la sua forza, e che sarà assolutamente slegato da esso. Nascerà sicuramente, perché... come tutte le cose, neanche Rusty Lake è eterno. Sì, no, diciamo anche che nel mondo indie, in generale, delle avventure grafiche o dei giochi narrativi, già esistono tanti titoli, a prescindere da Rusty Lake, che rendono lo stesso livello di dignità, no? Cioè, nel senso, comunque ci sono, ce ne sono tanti, poi con l'aspetto del, cioè, l'ambiente indie ha aiutato tanto da questo punto di vista, no? Perché chiaramente riuscite a poi andare, se sentite rumori cani, gatti e altre cose, insomma, affini, che in questo momento stanno facendo rumore. Comunque, vabbè, dai. Tra l'altro, tu c'hai quella tua puntata audio, che era una o due, c'è un momento de vuoto. Tre, forse, se erano parli tre. Del documentario. Esatto, esatto, erano tre. Che poi, tra l'altro, io l'avevo presa da te, perché ti avevo detto, guarda, mi piacerebbe riuscire a renderlo video, cioè, nel senso, prendere l'audio e trasformarlo in un video. Poi mi sono reso conto che il lavoro era mostruoso, cioè, nel senso, perché comunque la accuratezza narrativa di un documentario audio, così come l'hai costruito te, secondo me è, insomma, fuori scala. E ti faccio i complimenti ancora una volta, nonostante già te l'ho fatto, perché, anzi, se lo trovi al volo, metti il link nella chat, poi noi lo metteremo anche nelle note dell'episodio, perché riuscire a fare un documentario in tre parti, solo audio, sembra una stronzata, ma in realtà è complesso, e il suo lavoro è stato un lavoro articolato, ben strutturato, fatto bene, ovviamente ben spiegherato, perché... insomma, Leo è lo speaker ufficiale di Roundtime Radio, quindi chi meglio di lui, non quando parla Marchigiano che fa le dirette adesso con me, però lui è bravo, cioè devo dire che è forte. Quindi, insomma, ecco, se li trovi metti i link, perché secondo me meritano di essere ascoltati, che poi, insomma, alla fine tanto ascoltiamo tante volte tante cose, ma è una cosa specifica che ci piace, che è diversa dal formato del podcast dei videogiochi, dove ci stanno due o tre che parlano e diventa poi lungo, prolisso, e una rottura dei coglioni. Invece in questo caso lui ha fatto veramente un audio documentario, quindi, insomma, complimenti. Me lo stai linkando a me, ma dovresti linkarlo nella chat di YouTube, non a me. Ok, cioè, io, perché adesso sono solamente questa è quella che tu stai usando, è una chat privata interna tra me e te, e basta. L'ho letto, infatti c'è scritto private chat, solo che pensa, c'è anche scritto. Sì, no, ma lo penso, solo che sono connesso solamente con il nostro programmino qui, Restream Studio, quindi non sono su YouTube in questo momento, però giustamente adesso che ci penso potrei farlo direttamente su YouTube. Vabbè, lo faccio io, perché mi sa che mi pare un favore. Tu stai già laggando praticamente, solo perché... Vabbè. Allora, meglio. Vabbè, comunque, andando in conclusione, insomma, perché lo ami e perché secondo te la gente lo dovrebbe giocare? dovrebbe giocare la saga, ovviamente. Allora, vado un attimo. Ok, forse mi sentite? Sì, diciamo che sì, in questo momento sta un po' langando, ma mo passerà, dai. Appena passa questa tempesta fantastica riprendo a parlare. La tempesta solare, mi raccomando. Sì, assolutamente. Ecco, sei tornato, vai. Ok, sono tornato. Allora, quelli che Simone adesso ha linkato sono per l'appunto i collegamenti diretti al feed di Runtime su Spreaker del mio documentario in tre parti di Rusty Lake, che è uscito sul mio podcast Oro. Ora, io ho diviso diviso in tre. Uno parla proprio della storia della saga, scusate, parla proprio della storia dei creatori di Rusty Lake, di come è iniziato, di come hanno diviso i giochi, eccetera. La seconda, che è quella più lunga, parla proprio delle trame di tutti i videogiochi che sono usciti prima del remake di Samsara Room, perché è di qualche anno fa questo documentario. E il terzo invece parla di quelle che secondo me sono i riferimenti, le filosofie, le cose più interessanti che mi venivano in mente, anche se avrei voluto farlo più lungo, però mi sono detto a un certo punto, vabbè, basta. Ho parlato di tanta roba. Ti hai rotto il cazzo? No, in realtà no, anzi, io ero galvanato. No, scherzo. Proprio, però... Vabbè, ti sei reso conto che magari eccedere magari sarebbe stato controproducente. Sì, decisamente. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.